America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We want triggers. Di nuovo una protesta per un nero ucciso a sangue freddo con 8 colpi di pistola da un poliziotto bianco. L'incidente è accaduto sabato scorso a North Charleston in South Carolina, ma la protesta è di ieri ed è contro Eddie Driggers, il capo della polizia della città. È stato un suo agente ad aver colpito e si vuole arrivare ai vertici. La protesta, tra l'altro, è avvenuta proprio durante la conferenza stampa del sindaco, del capo della polizia. Ma c'è una differenza fondamentale con gli altri casi simili che abbiamo seguito un po' dappertutto in America negli ultimi mesi, e cioè che il poliziotto Michael Sledger, 33 anni, è stato arrestato per omicidio. Una svolta, naturalmente, perché finora nessuno dei poliziotti non solo era stato arrestato, ma anzi erano stati poi riconosciuti innocenti. Una svolta non rapida, perché l'arresto è avvenuto solo ieri notte, dopo 4 giorni, e solo dopo che il New York Times ha pubblicato un video chiave che dimostrava che non vi erano ragioni di legittima difesa da parte di Sledger. Walter Scott, 50 anni, scappava, era disarmato, ma è stato ucciso lo stesso. Today I made an executive decision and have notified my council. We have already ordered this morning an additional 150 body cameras so that every officer that's on the street in uniform will have a body camera. Keith Summey, ecco, questo è il sindaco della città, un repubblicano, tra l'altro, che ha avallato l'ordine di arresto immediatamente ed ha annunciato che d'ora in avanti i poliziotti dovranno indossare videoregistratori. Il sindaco dice: faremo il possibile per garantire equità. Il caso è stato affidato a un'agenzia autonoma dello Stato, la SLED, per evitare conflitti di interesse. Ecco, il sindaco era anche lui oggetto di protesta quando cercava di spiegare quello che sapeva e quello che non sapeva. Dal fondo della stanza si sentivano le urla di coloro che dicevano: ma come, tu sai tutto, raccontaci quello che sai. Perché questa tensione? Beh, perché riflette ovviamente quello che è successo dappertutto in America, e gli afroamericani non ne possono più, vogliono che si vada avanti e vogliono che ci sia giustizia davvero. My heart goes out to the family today. Had a good visit with them. I got to meet a daddy who is in mourning, a mama who is in mourning, and we talked father to father. Ecco, qui parla invece Eddie Driggers, il capo della polizia, colui che i dimostranti vorrebbero in prigione o vorrebbero comunque incriminato, visto che rappresenta il dipartimento. Driggers ha raccontato, devo dire, una persona molto pacata, e ha cercato di essere quanto più aperto possibile. Sembrava davvero sinceramente addolorato per quello che è successo. Ha raccontato di aver visto il padre dell'uomo ucciso, di aver pianto con lui, e ha implorato tutti di mantenere la calma. Sentiamo Driggers. I have watched the video and I was sickened by what I saw. I would just ask you to keep I have been praying for peace for the family and peace for this community, and I will continue to stand on that as I strive to protect and serve the people I took an oath to do so. Ecco, Driggers dice: quando ho visto questo video mi sono disgustato, volevo vomitare. Ho visto un padre in lutto e disperato, e prego perché vi sia pace nei cuori della famiglia e pace nella comunità. Ecco, questo è veramente il messaggio chiave: pace nella comunità. Il timore, naturalmente, che possano esserci delle altre dimostrazioni. Ma vediamo come parte questa storia, perché è importante capire la dinamica di quello che è successo. E dunque è una storia, in fondo, che parte come tante altre storie. Casualmente un uomo, appunto Walter Scott, viene fermato a North Charleston perché una delle luci posteriori della sua Mercedes non funziona. E ha 50 anni, un afroamericano, però, come dire, scende dalla macchina, parla col poliziotto, ma sa di avere altri problemi. Non ha pagato, questa è una rivelazione che viene dal fratello, non ha pagato le rate degli alimenti per mantenere i figli dopo il divorzio, e sa che se il poliziotto che lo ha fermato gli fa un controllo, rischia di essere arrestato proprio per la mancanza di questi pagamenti. E a quel punto c'è un piccolo alterco, un piccolo dialogo, questo è il video, vi sto raccontando poi a questo punto il video che molti di voi forse avranno visto, il video non è chiarissimo, c'è un piccolo alterco e a un certo punto si divincola e scappa, Walter Scott scappa. Il poliziotto Slager tira fuori la pistola e gli spara. Il video è piuttosto agghiacciante, si vede questo signore con un pullover verde che corre e il poliziotto che impugna la pistola e spara 8 colpi a ripetizione e lo uccide. E dopo Slager dirà che c'era stata una colluttazione, che l'uomo gli aveva preso il taser è la pistola che lancia scariche elettriche, e che sentendosi in pericolo di vita ha dovuto tirare fuori la pistola e sparare. E forse la storia, come molte altre, sarebbe passata così, perché i due erano su un prato deserto, ma è stato il video amatoriale di un passante, forse l'unico passante in quella zona deserta, a dimostrare che il poliziotto bianco non è mai stato in pericolo di vita e che decide di uccidere lo stesso. Degli 8 colpi sparati, 4 raggiungono Scott, uno all'orecchio, uno al cuore, uno alla schiena, un altro sulla parte alta dei glutei. Scott muore lì sul prato, il poliziotto si avvicina, gli mette le manette, poi torna indietro, prende da terra il taser, lo porta con sé e lo getta per terra di fianco al cadavere di Scott, come dire, per dimostrare, per provare che in effetti quello aveva cercato di rubargli questa pistola elettrica. Arrivano altri poliziotti, nessuno presta le normali assistenze di emergenza. This just into CNN breaking news here. This is the final count in the Boston Marathon bombing case. Count 30, Jahar Tsarnaev guilty. That makes him guilty of 30 counts, 17 of which are eligible for the death penalty. Ecco, un altro caso criminale, anzi di terrorismo, questa volta arriva dalla giuria di Boston il caso Tsarnaev, l'attentato alla maratona di Boston. Dopo 2 giorni di Camera di Consiglio la giuria ha raggiunto il verdetto: Zohar Tsarnaev è colpevole di tutti i capi d'accusa, 17 dei quali prevedono la possibilità della pena di morte. Non vi è ancora la decisione sulla pena, ma direi che alla luce di questa decisione il fatto che questo giovane sia condannato a morte per l'orrendo crimine che ha compiuto mi sembra quasi scontato. Ultima cosa, Rand Paul ha annunciato l'altro giorno la sua candidatura e un senatore del Texas, il padre Ron Paul, aveva corso 4 anni fa anche lui per la presidenza americana. Oggi si riflette su questa sua candidatura perché è una candidatura atipica. Rand Paul non è un repubblicano conservatore, un tipartista, è un libertario. Lui vorrebbe cambiare la natura del partito e sa che non avrà nessuna possibilità di vincere la candidatura per la nomination, ma vuole avanzare il dibattito nel partito per cambiare il volto dei repubblicani e renderli più aperti a quello che è il volto della stessa America che sta cambiando. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho pensato di proporvi dei Ram, Final Straw, una canzone contro la guerra e contro la violenza. Se l'odio mi giocherà qualche scherzo domani e il perdono cederà il passo alla vendetta, c'è un dolore giù nel profondo che non è stato rettificato, c'è una voce dentro di me che dice che tu non vincerai. Questa è una parte del testo di Final Straw. Who died and lifted you up to perfection? And what silenced me is written into law. I can't believe what circumstances throw me. Turn my head away. If I look, I'm not sure that I could face you. Not again. Not today. Not today. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.